N. Quarta traccia. Oh, sicuro. C'è una gran differenza, ma Mr. Weston è quasi un vecchio. Mr. Weston deve essere sulla cinquantina. E questo rende ancora più preziose le sue buone maniere. Più uno invecchia, Harriet, più importa che le sue maniere non siano cattive, più spicca e riesce disgustosa ogni chiassosità, o grossolanità o goffaggine. Quel che è tollerabile in un giovane è detestabile con gli anni. Mr. Martin è goffo e brusco adesso. Come sarà quando avrà gli anni di Mr. Weston? Dio solo lo sa davvero, rispose Harriet piuttosto solennemente. Ma si può indovinare assai bene. Sarà un agricoltore completamente grossolano e volgare, affatto non curante delle apparenze e preoccupato solo del guadagno e delle perdite. Se sarà così, sarà una pessima cosa. Quanto la sua occupazione lo assorba già è molto evidente dal fatto che egli ha dimenticato di ricercare il libro che avevate raccomandato. Aveva troppo la testa al mercato per pensare ad altro, che è proprio come deve essere per un uomo che vuol far quattrini. Ma che ha da vedere coi libri? Ed io non ho alcun dubbio che egli farà soldi e diventerà col tempo un uomo ricchissimo. E la sua mancanza di cultura e la sua rozzezza non devono turbare noi. Mi meraviglio che non si sia ricordato del libro, fu tutto quello che Harriet seppe rispondere, e lo disse con un tono così dispiaciuto che Emma pensò di poter contare che questo sentimento si sarebbe fatto strada da sé. Perciò ella non disse nulla per qualche tempo, poi ricominciò così. Per un certo verso, forse, le maniere di Mr. Elton sono superiori a quelle di Mr. Knightley o di Mr. Weston. Han più gentilezza. Si potrebbero più sicuramente raccomandare come modello. C'è in Mr. Weston una franchezza, una vivacità, quasi una asprezza, che in lui piace a tutti, perché insieme c'è tanta bonomia. Ma ciò non andrebbe come tipo da essere copiato. E neanche la maniera diretta, decisa, autoritaria di Mr. Knightley, sebbene a lui vada a pennello, il suo aspetto, la sua figura, la sua posizione paiono permetterla. Ma se un giovanotto si mettesse a copiarlo, non sarebbe sopportabile. Al contrario, io credo che si potrebbe senza rischio raccomandare a un giovane di prendere per modello Mr. Elton. Mr. Elton è di buon carattere, allegro, servizievole e gentile. Mi pare che negli ultimi tempi si sia fatto più gentile che mai. Non so se egli abbia in animo di entrare nelle grazie di una di noi due, Harriet, aumentando di dolcezza, ma mi par di notare che le sue maniere sono più dolci di quanto solevano. Se ci mette qualche intenzione, deve essere per ringraziarci voi. Non vi ho ripetuto che cosa ha detto di voi l'altro giorno? E a questo punto riferì un caldo elogio personale che aveva cavato da Mr. Elton e a cui ora rese pienamente giustizia. E Harriet arrossì e sorrise e disse che Mr. Elton le era sempre parso molto simpatico. Mr. Elton era proprio la persona su cui Emma si era fissata per scacciare dal cuore di Harriet il giovane agricoltore. Pensava che sarebbe stato un eccellente matrimonio e soltanto troppo manifestamente desiderabile. Naturale e probabile perché a lei ne venisse molto merito progettandolo. Temeva che ognuno dovesse pensare e predire. Non era tuttavia verosimile che qualcuno la battesse quanto alla data del suo progetto, perché le era balenato alla mente proprio la prima sera che Harriet era venuta a Hartfield. Più ci pensava, più si persuadeva della sua convenienza. La situazione di Mr. Elton era quanto mai adatta. Lui era un vero e proprio signore, senza bassi legami di parentela. Al tempo stesso, non apparteneva a una famiglia che potesse sollevare una legittima obiezione contro la dubbia nascita di Harriet. Aveva per lei una casa piena d'ogni comodo ed Emma si immaginava una rendita più che sufficiente, poiché, sebbene la parrocchia di Highbury non fosse ampia, si sapeva che egli aveva del suo e faceva gran conto di lui come d'un giovane di buon carattere, ben intenzionato, rispettabile, senza nessuna deficienza per ciò che fosse utile comprendere o sapere del mondo. Si era già accertata che egli riteneva Harriet una bella ragazza e questo, ella confidava, con sì frequenti occasioni di incontrarsi a Hartfield, forniva una base sufficiente da parte di lui. E da parte di Harriet c'era da dubitar poco che l'idea d'essere scelta da lui avrebbe avuto tutto il peso e l'effetto abituali in simili casi. Ed egli era davvero un giovane simpaticissimo, un giovane che sarebbe potuto andare a genio a ogni donna non troppo difficile. Era ritenuto molto avvenente e la sua persona era generalmente molto ammirata, sebbene non da Emma, poiché mancava ai suoi lineamenti l'eleganza di cui essa non sapeva fare a meno. Ma la ragazza che poteva pagarsi di un Robert Martin che cavalcava per la campagna per cercare le noci, avrebbe agevolmente potuto essere conquistata dall'ammirazione di Mr. Elton. Non so quale possa essere la vostra opinione, Mrs. Weston, disse Mr. Knightley, su questa grande intimità tra Emma e Harriet Smith, ma a me pare una cosa cattiva. Una cosa cattiva? Davvero pensate che sia una cosa cattiva? E perché? Credo che nessuna delle due possa giovare all'altra. Mi sorprendete. Emma deve far del bene a Harriet e col fornirle un nuovo oggetto di interesse si può dire che Harriet faccia del bene a Emma. Ho veduto crescere la loro intimità col più vivo piacere, come la pensiamo diversamente, credere che non possono giovarsi l'una all'altra. Questo sarà di certo il principio di una delle nostre liti intorno a Emma, Mr. Knightley. Forse credete che io sia venuto apposta per bisticciarmi con voi, sapendo che Weston è fuori e che dovete combattere da sola? Mr. Weston, certo mi sosterrebbe se fosse qui, poiché su questo punto la pensa esattamente come me. Ne parlavamo non più tardi di ieri e ci trovavamo d'accordo a dire che fortuna era per Emma che ci fosse in Highbury una ragazza come Harriet per farle compagnia. Mr. Knightley, permettete che vi dica che non siete un giudice obiettivo in questo caso. Siete così avvezzo a vivere da solo che non sapete il valore di un compagno. E forse nessun uomo può essere un buon giudice del conforto che una donna prova nella compagnia di una del proprio sesso, dopo esserci stata abituata per tutta la vita. Posso immaginarmi perché Harriet Smith solleva la vostra obiezione. Non è il tipo di giovinetta superiore che dovrebbe essere l'amica di Emma. Ma d'altra parte, siccome Emma desidera di vederla meglio istruita, Ciò servirà a stimolarla a leggere di più lei stessa. Leggeranno insieme, so che ha questa intenzione. Emma ha sempre avuto l'intenzione di leggere di più da quando aveva 12 anni. Ho visto moltissime liste compilate da lei in varie epoche, di libri che intendeva leggere da cima a fondo, ed erano ottime liste, benissimo scelte e ordinate con gran nitidezza, talvolta in ordine alfabetico, talaltra secondo qualche altro criterio. La lista che compilò quando non aveva che 14 anni, ricordo che faceva tanto onore al suo giudizio che io la tenni di conto per qualche tempo. E si può star certi che ora avrà compilato una lista eccellente. Ma ho rinunziato ad aspettarmi da Emma una serie di letture metodiche. Essa non si sottometterà mai a cosa che richieda laboriosità e pazienza e una subordinazione della fantasia all'intelletto. Laddove Miss Taylor non è riuscita a stimolare, posso affermare con sicurezza che Harriet Smith non avrà alcun effetto. A voi non è mai riuscito di persuaderla a leggere la metà di quanto desideravate. Sapete che non potevate farlo. Oso dire, replicò Mrs. Weston sorridendo, che allora pensavo così, ma da quando ci siamo separate non riesco a ricordarmi che Emma abbia trascurato di fare qualunque cosa io desideravo. Non che io desideri di rinfrescare una memoria come quella, disse Mr. Knightley con calore, e per un momento si interruppe. Ma io, subito aggiunse, che non ho avuto tale incanto gettato sopra i miei sensi, non posso ancora fare a meno di vedere, di udire e di ricordare. Emma è viziata per essere l'ingegno più vivo della famiglia. A 10 anni ebbe la disgrazia di riuscire a rispondere a domande che lasciavano perplessa sua sorella, che ne aveva 17. Emma fu sempre pronta e sicura di sé, Isabella lenta e diffidente. E dal suo 12° anno Emma è stata padrona di casa e di tutti voi. Con la madre perdette la sola persona che poteva tenerle testa. Essa eredita il talento della madre e a lei dovrebbe essere stata sottomessa. Sarei molto dispiacente, Mr. Knightley, di dovermi rimettere alla vostra raccomandazione se avessi lasciato la famiglia di Mr. Woodhouse e desiderato un altro posto. Non credo che avreste detto una buona parola ad alcuno in mio favore. Sono certa che voi mi avete sempre ritenuto incapace per l'ufficio che mi era affidato. Sì, disse egli sorridendo. Il vostro posto è meglio qui, adattissimo per moglie, ma niente affatto per governante. Ma vi preparaste ad essere una moglie eccellente tutto il tempo che foste a Hartfield. Può essere che non abbiate dato a Emma quella completa educazione che le vostre doti sembravano promettere, ma riceveste un'ottima educazione da lei su quell'importantissimo capitolo del matrimonio che consiste nel sottomettere la propria volontà e nel fare come si è comandati. E se Weston mi avesse chiesto di raccomandargli una moglie, certamente avrei fatto il nome di Miss Taylor. Grazie. Ci sarà ben poco merito nell'essere una buona moglie per un uomo come Mr. Weston. Ebbene, a confessare il vero, ho paura che siate piuttosto sprecata e, con ogni disposizione a sopportare, non vi tocchi di sopportare nulla. Però non disperiamo. Weston potrebbe diventare bisbetico per l'eccesso stesso delle comodità, o suo figlio potrebbe tormentarlo. Questo poi spero che non succeda, non è verosimile. No, Mr. Knightley, non predite contrarietà da quella parte. Oh, io no davvero, enuncio solo delle possibilità. Non pretendo di avere il genio di Emma per predire e indovinare. Spero con tutto il cuore che quel giovanotto possa riuscire un Weston per merito e un Churchill per patrimonio. Ma Harriet Smith, non ho ancora detto la metà di quel che voglio dire su Harriet Smith. La credo la peggior sorta di compagna che potrebbe capitare a Emma. Non sa nulla lei stessa e considera Emma onnisciente. È in tutti i suoi modi un'adulatrice, e tanto peggio in quanto non di proposito. La sua ignoranza è una continua adulazione. Come può Emma pensare d'aver lei stessa da imparare qualcosa, mentre Harriet le offre lo spettacolo di sì deliziosa inferiorità? E quanto ad Harriet, mi azzardo a dire che neanch'essa ha nulla da guadagnare dalla conoscenza. Harfield non farà che stuccarla di tutti gli altri posti a cui essa appartiene. Diventerà giusto abbastanza raffinata per trovarsi a disagio con coloro tra i quali la sua nascita e le sue circostanze hanno collocato il suo ambiente. O mi sbaglio di molto, o le dottrine di Emma non sono fatte per dar fortezza d'animo o per guidare una ragazza ad adattarsi razionalmente alle variazioni della sua situazione nella vita. Esse danno solo un'infarinatura di belle maniere. Oh, io confido più di voi nel discernimento di Emma, o mi preoccupo di più del suo benessere presente, che non riesco a deplorare questa conoscenza. Che buona cera aveva la sera scorsa. Oh, vorreste parlare piuttosto della sua persona che del suo spirito, eh? Benissimo, io non negherò davvero che Emma sia carina. Carina? Dite bella piuttosto. Potete immaginarvi qualcosa di più vicino alla perfetta bellezza che Emma nel suo insieme? Faccia e personale? Non so quel che potrei immaginare, ma confesso che di rado ho visto un volto o un personale più attraenti dei suoi. Ma io ho la parzialità di un vecchio amico. Che occhi! I veri e propri occhi color nocciola e così scintillanti. Fattezze regolari, viso aperto e un colorito. Oh, che fior di salute e che altezza, che proporzioni leggiadre, che figura diritta e ben piantata. Spira salute non solo il suo incarnato, ma anche la sua aria, la sua testa, il suo sguardo. Si sente talvolta dire d'un bambino che è il ritratto della salute. Ebbene, Emma mi fa sempre l'effetto d'essere il ritratto perfetto della salute adulta. È la leggiadria fatta persona. Non è così, Mr. Knightley? Non c'è difetto che io possa trovare nella sua persona, egli rispose. Credo che sia tutto quel che voi dite. Amo guardarla e aggiungerò questa lode che non la credo vanesia della sua persona. Considerando quanto è bella, sembra che se ne occupi poco. La sua vanità è altrove. Mrs. Weston, non mi leverete di mente la mia disapprovazione per la sua intimità con Harriet Smith, o il mio timore che questa nuocia a entrambe. E io, Mr. Knightley, sono egualmente irremovibile nella mia fiducia che quell'intimità non nuocia loro affatto. Con tutti i suoi difettucci, la nostra Emma è una creatura eccellente. Dove trovare una figliola migliore, o una sorella più affettuosa, o un'amica più vera? No, no, ella possiede qualità su cui si può contare. Non guiderà mai proprio male nessuno. Non commetterà errori irreparabili. Se Emma sbaglia una volta, 100 volte è nel giusto. Sta bene, non vi tormenterò più. Emma sarà un angelo e io mi terrò per me il mio malumore finché Natale porti John e Isabella. John vuole bene ad Emma con un affetto ragionevole e perciò non cieco. E Isabella la pensa sempre come lui, eccetto quando lui non ha abbastanza paura per i bambini. Son sicuro di avere la loro opinione dalla mia parte. So che tutti voi le volete realmente troppo bene per essere ingiusti o duri verso di lei, ma scusatemi, Mr. Knightley, se io mi prendo la libertà Voi sapete che io ritengo d'avere un po' del privilegio di parlare che avrebbe avuto la madre di Emma. La libertà d'avvertire che non credo che qualcosa di buono possa venire dal vostro mettervi a discutere molto tra di voi l'intimità con Harriet Smith. Vi prego di scusarmi, ma supponendo che da tale intimità si possa temere qualche piccolo inconveniente, non ci si può attendere che Emma, avendo da rispondere soltanto a suo padre, che approva interamente quella relazione, vi metta fine finché costituisca per lei una fonte di piacere. Per tanti anni quello di dar consigli è stato il mio campo, che non posso rimanere sorpreso, Mr. Knightley, di questi strascichi del mio ufficio. «Oh, affatto!» esclamò lui. «Ve ne sono anzi obbligato. È un ottimo consiglio e avrà miglior sorte di quanta non ne abbiano avuto spesso i vostri consigli, poiché gli darò ascolto». Mrs. John Knightley s'allarma facilmente e potrebbe angustiarsi nei riguardi della sorella. «Rassicuratevi», disse egli, «non farò scalpore. Mi terrò per me il mio cattivo umore. Ho per Emma un interesse proprio sincero. Isabella non sembra di più di mia sorella. Non ha mai stimolato un interesse maggiore, forse neanche un interesse così grande. C'è dell'ansia, della curiosità in ciò che uno sente per Emma. Mi domando che ne sarà di lei». «E così faccio io pure», disse con dolcezza Mrs. Weston, «moltissimo. Essa dichiara sempre che non si sposerà mai, che naturalmente non vuol dire nulla, ma non ho l'impressione che essa abbia mai ancora incontrato un uomo che la interessi. Non sarebbe male per lei innamorarsi molto di una persona a modo. Mi piacerebbe di vedere Emma innamorarsi e, in dubbio se il suo amore sia ricambiato. Le farebbe bene, ma da queste parti non c'è nessuno che possa attirare il suo affetto e si allontana così di rado da casa. Sembra davvero che ci sia ben poco che per il momento possa tentarla a rompere la sua risoluzione», disse Mrs. Weston. «E mentre è così felice a Hartfield, non posso desiderare che contragga un legame d'affetto che creerebbe tanta difficoltà, in considerazione del povero Mr. Woodhouse. Per il momento non raccomando a Emma il matrimonio, sebbene vi assicuro io non intenda dir male dello stato coniugale». Parte del suo intento era di nascondere il più possibile certi pensieri favoriti suoi propri e di Mr. Weston in proposito. A Randalls si formulavano voti circa il destino di Emma, ma non era desiderabile farli sospettare, e la tranquilla transizione che Mr. Knight fece subito dopo a «che pensa Weston del tempo? Avremo pioggia?» la convinse che egli non aveva nient'altro da dire o da congetturare circa Hartfield. Emma non dubitava affatto di non aver dato alla fantasia di Harriet una buona direzione e di non aver elevato a un ottimo fine la gratitudine della sua vanità giovanile, giacché la trovò decisamente più sensibile di prima al fatto che Mr. Elton era un gran bell'uomo dai modi simpaticissimi. E siccome non ebbe alcuna esitazione a secondare con lusinghieri accenni l'assicurazione che egli l'ammirava, ben presto confidò di creare da parte di Harriet tanta simpatia quanta permettevano le circostanze. Emma era assolutamente convinta che Mr. Elton fosse sul punto di innamorarsi, se proprio non era già innamorato. Nei suoi confronti non aveva scrupoli. Egli parlava di Harriet e la elogiava così caldamente che Emma non poteva supporre che mancasse nulla che un po' di tempo non avrebbe aggiunto. Il suo accorgersi dello straordinario miglioramento dei modi di Harriet da quando era stata introdotta a Hill non era una delle meno gradite prove del suo crescente affetto. «Voi avete dato a Miss Smith tutto quello di cui abbisognava», disse egli. «L'avete resa graziata e spigliata. Era una bella creatura prima di venire da voi, ma, a parer mio, le attrattive che avete aggiunto voi sono infinitamente superiori a quelle che ha ricevuto dalla natura. Sono lieta che pensiate che io le sia riuscita utile, ma Harriet aveva solo bisogno che si cavasse fuori quel che c'era in lei e di ricevere pochissimi suggerimenti. Aveva in sé tutta la grazia naturale della semplicità ed un carattere dolce. Io ho fatto ben poco. Se fosse permesso di contraddire una signora, disse il galante Mr. Elton, forse le ho dato un po' più di fermezza di carattere, le ho insegnato a pensare a cose su cui non le era mai capitato di fissarsi prima. Proprio così. Questo è ciò che principalmente mi colpisce. Una tale aggiunta di decisione di carattere. Abile è stata la mano. Grande è stato il piacere, vi assicuro. Non mi sono mai imbattuta in una disposizione più genuinamente amabile. Non ne dubito. E ciò fu detto con una specie di sospirante animazione, che pareva proprio d'un innamorato. Un altro giorno essa non rimase meno soddisfatta del modo in cui Mr. Elton secondò un suo improvviso desiderio d'avere il ritratto di Harriet. «Vi siete mai fatta fare il ritratto, Harriet?» disse Emma. «Avete mai posato davanti a un pittore?» Harriet era sul punto di lasciare la stanza e si fermò solo per dire con un'ingenuità simpaticissima: «Oddio, no, mai!» Appena fu scomparsa, Emma esclamò: «Come sarebbe delizioso possedere un buon ritratto di lei! Pagherei non so cosa per averlo! Mi sento quasi voglia di tentare io stesso di ritrarla. Non lo sapete, immagino, ma 2 o 3 anni fa io avevo una gran passione di far ritratti e mi provai con parecchi dei miei amici e in genere mi si riconosceva abbastanza occhio, ma per una ragione o per l'altra ci rinunziai disgustata. Ma davvero quasi m'azzarderei se Harriet volesse posare per me. Sarebbe un tal piacere possedere la sua immagine». «Lasciate che io vi supplichi», esclamò Mr. Elton. «Sarebbe davvero un tal piacere. Lasciate che io vi supplichi, Miss Woodhouse, di esercitare un talento così affascinante a favore della nostra amica. So come sono i vostri disegni. Come avete mai potuto supporre che io li ignorassi? Non è forse questa camera ricca di saggi dei vostri fiori e dei vostri paesaggi? E non ha Mrs. Weston alcuni inimitabili studi di figura nel suo salotto a Randalls?» «Sì, caro mio», pensava Emma, «ma che cosa ha a che fare tutto ciò col far ritratti? Voi non vi intendete affatto di disegno. Non fingete d'andare in estasi davanti ai miei. Tenetevi le vostre estasi per il volto di Harriet. Ebbene, se mi date sì cortesi incoraggiamenti, Mr. Elton, credo che ci proverà. I lineamenti di Harriet sono molto delicati e questo rende difficile fare un ritratto somigliante. Eppure c'è qualcosa di peculiare nella forma dell'occhio e nelle linee intorno alla bocca che dovrebbe essere colto. Precisamente, la forma dell'occhio e le linee intorno alla bocca. Non ho dubbi sul vostro successo. Vi prego, provateci. Al modo in cui eseguirete il ritratto sarà davvero, per usare le vostre stesse parole, una cosa deliziosa da possedere».